Ad alta voce, Maria Paiato legge Amatissima di Toni Morrison. Traduzione di Giuseppe Natale. Era tempo di mettere giù tutto. Prima che comparisse Paul D e andasse a sedersi sui gradini della veranda, a farla andare avanti erano state le parole sussurrate nel soggiorno. L'avevano aiutata a sopportare quello spirito castigatore. L'avevano aiutata a lustrare il ricordo dei volti da adolescenti di Howard e di Baglar e a mantenerli integri nella realtà, poiché nei sogni lei ne vedeva solo qualche parte far capolino tra gli alberi. E l'avevano aiutata a mantenere l'immagine di suo marito in un alone di incertezza, però pur sempre lì, da qualche parte. Ora il volto di Hall, tra il torchio per il burro e la zangola, si ingigantiva sempre più, fino a colmarle gli occhi e a farle venire mal di testa. Avrebbe voluto che ci fossero le dita di Baby Sax a massaggiarle la nuca, a riplasmarla dicendole: «Mettili giù, Seth, la spada e lo scudo, giù, giù, mettili giù tutti e due». Fu davanti a quel 124 che Seth smontò dal carro, la neonata legata al petto, e lì sentì per la prima volta le braccia accoglienti della suocera, la quale era riuscita ad arrivare a Cincinnati, la quale, visto che la vita da schiava le aveva rovinato le gambe, la schiena, la testa, gli occhi, le mani, i reni, il ventre, la lingua, aveva deciso che per procurarsi da vivere non le restava altro che il cuore, e lo aveva messo subito al lavoro. Rifiutando qualsiasi titolo onorifico davanti al nome, accettando però di farlo seguire da un piccolo cenno di affetto, divenne una predicatrice non affiliata ad alcuna chiesa, che andava visitando i vari pulpiti e apriva il suo grande cuore a quelli che potevano usarlo. D'autunno ed inverno lo portava dai metodisti episcopali africani, dai battisti, dalle santità e dai santificati, dalla chiesa del Redentore e del Redento. Senza vocazione, senza paramenti, senza consacrazione, lasciava che il suo grande cuore battesse davanti a loro. Quando veniva la stagione calda, Baby Sax, la santa, seguita da tutti gli uomini, le donne e i bambini neri in grado di farcela, portava il suo grande cuore alla radura, un posto ampio e arioso, ricavato nel folto di un bosco che nessuno conosceva, alla fine di un sentiero noto solo ai cervi e a chiunque fosse stato il primo a disboscare il posto. Nella calura di tutti i sabati pomeriggio, sedeva nella radura, mentre la gente aspettava tra gli alberi. Non diceva di mondare la loro vita, né di andare e non peccare più. Non diceva che erano i beati della terra, i miti che l'avrebbero ereditata o i puri di cuore destinati alla gloria. Diceva loro che l'unica grazia che potevano avere era la grazia che potevano immaginare, che se non potevano vederla non l'avrebbero ricevuta. «Qui», diceva, «in questo posto qui, noi siamo carne, carne che piange e che ride, carne che balla a piedi nudi sull'erba. Amatela, amatela tanto. Laggiù non amano la vostra carne, la disprezzano, non amano i vostri occhi, ve li possono strappare come niente, né amano di più la pelle della vostra schiena, laggiù ve la levano». E non amano le vostre mani, oh cari miei, quelle le usano soltanto, le legano, le stringono, le tagliano via o le lasciano vuote. Amate le vostre mani, amatele, alzatele e baciatele, usatele per toccare gli altri, battetele, usatele per carezzarvi la faccia, perché non amano nemmeno quella. Siete voi che dovete amarla, voi. E no, non sono innamorati della vostra bocca. Laggiù ve la spaccheranno di sicuro e ve la spaccheranno di nuovo. Non daranno retta a quello che dirà. Non ascolteranno quello che griderà. Quello che ci metterete dentro per nutrire il vostro corpo ve lo ruberanno e al suo posto vi daranno gli avanzi. No, no, non amano la vostra bocca. Dovete amarla voi. È della carne che vi parlo qui, carne che ha bisogno di essere amata, piedi che hanno bisogno di riposare, di ballare, schiene che hanno bisogno di sostegni, spalle che hanno bisogno di braccia forti, ve lo dico io. E statemi a sentire, oh cari miei, statemi a sentire, laggiù non amano il vostro collo, bello, dritto e senza cappio, perciò amate il vostro collo, metteteci una mano sopra, trattatelo bene, carezzatelo e tenetelo dritto, e tutte le parti dentro, che loro butterebbero subito ai porci, dovete amare anche quelle, il fegato scuro, scuro, amatelo, amatelo, e anche il cuore che batte, batte sempre, amate anche quello, più degli occhi o dei piedi, più dei polmoni che devono ancora respirare l'aria libera, più del vostro ventre che racchiude la vita e delle vostre parti personali che danno la vita. Ascoltatemi, amate il vostro cuore, perché questo è il vostro premio. Senza aggiungere altro, a quel punto si alzava e, ballando con la sua anca storta, diceva quello che il cuore aveva ancora da dire, mentre gli altri aprivano la bocca e le offrivano l'accompagnamento musicale. Delle note tremule, tenute, finché l'armonia a quattro voci raggiungeva una perfezione adeguata a quella carne amata così profondamente. Seth ora avrebbe voluto essere lì, almeno per ascoltare i vuoti che i canti di quel tempo si erano lasciati dietro, tutt'al più per avere un suggerimento dalla madre defunta di suo marito, su che cosa doveva farsene ora, della spada e dello scudo, santo cielo. Ora, dopo 9 anni che Baby Sachs, la santa, s'era dimostrata una bugiarda, aveva rinnegato il suo grande cuore e s'era distesa sul letto del soggiorno, risvegliata di quando in quando solo da un improvviso desiderio di colori e nient'altro. Si mise lo scialle e disse a Denver e a Beloved di fare altrettanto. Uscirono tutte e tre la domenica mattina tardi, Seth davanti, le ragazze che le trotterellavano dietro, non un'anima viva in giro. Quando arrivarono al bosco, non ebbe problemi a trovare il sentiero che lo attraversava, perché ora vi si tenevano regolarmente gli incontri spirituali cittadini, completi di tavole imbandite, banjo e tende. Il vecchio sentiero ora era una pista battuta, però ancora nascosta dalla volta degli ipocastani che lasciavano cadere i loro frutti sull'erba. Seguita dalle due ragazze, lungo un corridoio d'un verde scintillante fatto di querce e di ipocastani, Seth cominciò a sudare, d'un sudore simile a quello che le era venuto quando si era risvegliata sulle sponde del fiume Ohio, tutta ricoperta di fango. Amy se n'era andata, Seth era sola e debole, però viva, e così anche la bambina. Avanzò per qualche tratto lungo il fiume e poi si fermò ad ammirare l'acqua scintillante. Poco dopo comparve una chiatta lontana, Seth però non riusciva a distinguere se si trattava di bianchi o no. Cominciò a sudare per la febbre, ringraziando Dio perché avrebbe certamente tenuto la bambina al caldo. Quando la chiatta scomparve, Seth avanzò, incespicando, e si ritrovò vicino a 3 uomini di colore che pescavano, 2 ragazzi e un uomo anziano. Si fermò e attese che le rivolgessero la parola. Uno dei ragazzi la indicò e l'uomo girò la testa di fianco per guardarla. Uno sguardo rapido, perché tutto quello che aveva bisogno di sapere poteva vederlo subito. Per un po' nessuno parlò. Poi l'uomo disse: «Devi traversare?» «Sì, signore», rispose Seth. «Qualcuno sa che arrivi?» «Sì, signore». L'uomo la guardò di nuovo e le indicò col capo una roccia, più in alto rispetto a dove si trovava lui, la quale sporgeva fuori dal terreno simile a un labbro inferiore. Seth la raggiunse e si sedette. La pietra aveva assorbito i raggi del sole, ma non era per nulla calda rispetto quanto lo era lei. Troppo stanca per muoversi, se ne restò lì, col sole negli occhi che la stordiva. Seth si appisolò. Venne la sera e l'uomo la svegliò, toccandole appena la spalla. contrariamente a quanto si aspettava, risalirono la corrente, allontanandosi dalla barca a remi che Amy aveva trovato. Quando ormai Seth pensava che l'uomo la stesse riportando nel Kentucky, lo vide virare la chiatta e attraversare l'Ohio in un baleno. Giunti dall'altra parte, l'aiutò a salire la sponda scoscesa e la condusse in una baracca ricoperta di sterpi con un pavimento di nuda terra. «Aspetta qui, mando subito qualcuno. Non ti muovere, ti troveranno loro». Qualche ora dopo, si vide davanti una donna senza averla minimamente sentita arrivare. Una donna bassa, giovane, con un sacco di tela, che la salutava. «È da un po' che ho visto il segnale», disse, «ma non ho potuto arrivare prima». «Che segnale?» le chiese Seth. «Quando c'è qualcuno che passa il fiume, Stump lascia il vecchio porcile aperto, e se c'è un bambino, annoda uno straccio bianco sul palo». La donna si inginocchiò e vuotò il sacco. «Mi chiamo Ella», disse, tirando fuori una coperta di lana, un panno colorato, due patate al forno e un paio di scarpe da uomo. «John, mio marito, è giù di là. Dove vai?» Seth le raccontò di Baby Sucks, da cui aveva già mandato i tre bambini. «Saranno felici di vederti», disse ella. «Quando è nata questa qui?» «Ieri», disse Seth asciugandosi il sudore sotto il mento. «Spero che ce la farà». Ella guardò la faccia minuta, sporca, che faceva capolino dalla coperta di lana e scosse il capo. «Chi lo sa», disse. «Se qualcuno vuole la mia opinione, io direi non amare niente». Poi, quasi a voler smussare quella sua dichiarazione, sorrise a Seth. «L'hai fatta da sola?» «No, mi ha aiutato una ragazza bianca». «Allora è meglio se ce la squagliamo». Baby Sucks le diede un bacio sulle labbra e rifiutò di farla vedere ai bambini. Disse che dormivano e che Seth aveva un aspetto troppo brutto per svegliarli così nella notte. Prese la neonata e la passò a una giovane donna con la cuffia, dicendole di non pulirle gli occhi finché non avesse avuto l'urina di sua madre. «Ha già pianto?» chiese Baby Sucks. «Un po'. Tempo al tempo. Curiamo la madre prima». Baby Sucks condusse Seth nel soggiorno e alla luce di una lampada a spirito la lavò un pezzo per volta, a cominciare dal volto. Poi, mentre aspettava che si scaldasse un'altra bacinella d'acqua, si sedette accanto a lei a cucire una stoffa di cotone grigio. Seth si appisolò per poi risvegliarsi quando sentì che le lavava le braccia e le mani. Dopo averla lavata, Baby Sucks la ricopriva ogni volta con la trapunta e metteva a scaldare in cucina un'altra bacinella d'acqua. Stracciava le lenzuola, cuciva il cotone grigio e contemporaneamente sorvegliava la donna con la cuffia che aveva cura della bambina e le dava istruzioni ai fornelli urlando. Dopo aver finito con le gambe, Baby Sucks le guardò i piedi e glieli asciugò delicatamente. La pulì tra le gambe, usando due casseruole di acqua a parte. Poi le strinse lo stomaco e la vagina, servendosi delle lenzuola. Infine decise di dedicarsi a quei piedi irriconoscibili. «Senti qualcosa?» «Sentire che cosa?» le chiese Seth. «Niente, tirati su». Aiutò Seth a sistemarsi su una sedia a dondolo e le fece mettere i piedi in un secchio d'acqua con del sale e del ginepro dentro. Seth rimase seduta lì per tutta la notte, coi piedi a mollo. Baby Sucks cercò prima di inumidirle con del grasso le croste sui capezzoli, poi lavò il tutto. All'alba la bambina silenziosa si svegliò e prese il latte dalla madre. «Prega il cielo che non si sia inacidito», disse Baby Sucks. «E quando hai finito, chiamami». Mentre faceva per andarsene, Baby Sucks scorse qualcosa di scuro sul lenzuolo. Aggrottò le sopracciglia e osservò la nuora che si chinava verso la bambina. Sulla coperta che ricopriva le spalle di Seth erano sbocciate delle rose di sangue. Baby Sucks si nascose la bocca con la mano. Quando Seth finì di allattare e la neonata si fu addormentata, gli occhi chiusi, la lingua che succhiava ancora nel sonno. Senza proferir parola, l'anziana donna le unse di grasso quella schiena in fiore e appuntò un pezzo di stoffa ripiegata in due dentro il vestito appena cucito. Non le sembrava ancora vero. Non ancora. Ma quando le portarono i maschietti addormentati e la sua bambina gattona già, non le importava di sapere se fosse vero o no. Seth si mise a letto con tutti loro sotto, intorno, sopra, ma specialmente assieme a lei. La bambina le fece colare in faccia la sua bava limpida. La risata di gioia di Seth fu così forte che la bambina gattona già batté le palpebre. Baglar e Howard giocavano con i suoi piedi malconci, dopo aver fatto a gara per vedere chi era il più coraggioso dei due a toccarli per primo. Lei non smetteva più di baciarli. Li baciava dietro sul collo, sulla testa e sulla palma della mano, ma furono i bambini a decidere che il troppo era troppo. Quando Seth alzò le magliette per baciare i loro pancini belli tondi, le chiesero: «C'è anche papà?» E Seth smise di baciarli allora, e per quella ragione. Non pianse, rispose «Presto!» e sorrise. Così avrebbero pensato che era solo l'amore a farle brillare gli occhi. Questo accadde un po' prima che Baby Sax mandasse via i bambini facendogli «Sciò, sciò!» Così Seth avrebbe potuto indossare la veste di cotone grigio che la suocera aveva cominciato a cucire la sera prima. Infine, si distese di nuovo e si mise a cullare tra le braccia la bambina gattona già. Si strinse il capezzolo sinistro tra due dita della mano destra e la bambina aprì la bocca. Centrarono il bersaglio insieme. Baby Sax entrò e si mise a ridere, dicendo a Seth quanto era forte la bambina, quanto era sveglia, gattonava già. Poi si chinò a raccogliere gli stracci appallottolati che erano stati i vestiti di Seth. «Qui non c'è niente da salvare», disse. Seth alzò lo sguardo. «Aspetta!» le gridò. «Guarda se c'è ancora qualcosa annodato nella sottoveste!» Baby Sax fece passare tra le dita quel tessuto tutto rovinato e si imbatté in qualcosa. Sembravano dei sassolini. Li porse a Seth. «Regalo per la partenza?» «Regalo di nozze!» «Non male se ci fosse stato anche lo sposo assieme!» Osservò gli oggetti che teneva in mano. «Secondo te, che cosa è successo?» «Non lo so», rispose Seth. «Non c'era lì dove aveva detto che ci saremmo incontrati. Ho dovuto andarmene. Ho dovuto». Seth osservò prima per un momento gli occhi assonnati della poppante. Poi guardò il volto di Baby Sax. «Ce la farà. Se ce l'ho fatta io, di sicuro ce la può fare anche Hall». «Bene. Mettiti questi. Magari gli illuminano la strada». Convinta che suo figlio fosse morto, porse le pietre a Seth. «Non ho i buchi». «Te li faccio io», disse Baby Sax. «È questione di un attimo». Seth fece tintinnare gli orecchini per far divertire la bambina gattona già, la quale cercava di prenderli e non si stancava mai. Giunta nella radura, Seth trovò la vecchia roccia dove Baby Sax era solita pregare e le venne in mente il profumo delle foglie che ribollivano al sole, il rintronare dei piedi, le grida che scuotevano i ricci dai rami degli ipocastani facendoli cadere. Davanti al vigile cuore di Baby Sax, la gente si lasciava andare. Ora stava seduta sulla roccia di Baby Sax. Denver e Beloved la osservavano da dietro gli alberi. «Non arriverà mai il giorno», pensò, «in cui Hall verrà a bussare alla porta». Non sapere era difficile. Sapere era più difficile ancora. «Solo le dita», pensò. «Fammi solo sentire di nuovo le tue dita dietro il collo e metterò giù tutto. Troverò un'uscita da questa strada senza uscita». Seth chinò il capo. Ed eccole. Erano proprio loro. Ora erano più leggere, poco più che la carezza di una piuma, ma senza ombra di dubbio erano delle dita che la carezzavano. Seth dovette rilassarsi un po' per permettere alle dita di fare il loro lavoro. Tanto leggero era quel tocco, quasi infantile. Sembrava più un bacio che un massaggio. Seth si sentiva comunque grata per quel suo tentativo. L'amore di Baby Sax, anche se lontano, non era da meno di qualsiasi amore fisico avesse mai conosciuto. Il desiderio, per non parlare dell'atto in sé, di venire incontro ai suoi bisogni fu sufficiente a sollevarle lo spirito, quel tanto che bastava farle compiere il passo successivo. chiedere qualche parola chiarificatrice, qualche consiglio su come continuare ad andare avanti con un cervello affamato di notizie a cui nessuno avrebbe saputo reggere in un mondo ben lieto di fornirgliele. Sapeva che Poldi aveva aggiunto qualcosa alla sua vita, qualcosa su cui lei voleva contare, ma che la lasciava impaurita. Ora aveva aggiunto dell'altro, nuove immagini e vecchi ricordi che le avevano spezzato il cuore. Lo spazio vuoto, riservato alla sorte ignota di Hall, uno spazio a volte tinto dal giusto risentimento per la sua eventuale codardia, stupidità o sfortuna che fosse, quello spazio vuoto, riservato alle notizie imprecise, adesso era stato colmato da un dolore nuovo di zecca. E chi poteva dire quanti altri ce n'erano ancora in arrivo? Anni prima, quando il 124 era vivo, aveva avuto delle amiche, degli amici da ogni dove, con cui poter condividere il dolore. Poi non c'era più stato nessuno, perché nessuno voleva andare a trovarla finché c'era lo spirito della bambina a occupare la casa. E lei aveva reagito alla condanna della gente con il possente orgoglio di chi viene maltrattato. Ma ora c'era qualcuno con cui dividere il suo dolore. Il giorno stesso in cui era arrivato a casa sua aveva provveduto a sbatter fuori lo spirito e da allora questo non aveva più dato segni. Una benedizione? Sì, ma al suo posto aveva portato un altro genere di ossessione. La faccia di Hall, imbrattata di burro e di latte cagliato, la bocca di Paul D. stracolma di ferro e Dio solo sa che cos'altro ancora avrebbe potuto raccontarle se avesse voluto. Le dita che la sfioravano dietro sul collo ora erano più forti, le carezze più audaci, come se Baby Sax stesse riacquistando forza, i pollici sulla nuca e le dita che premevano di fianco, sempre più forte, le dita le si avvicinavano lentamente alla trachea, muovendosi in piccoli cerchi. Seth, a dire il vero, fu più sorpresa che terrorizzata nello scoprire che la stavano strangolando. O almeno così le sembrava. Le dita di Baby Sax la stringevano in modo tale da non consentirle di respirare. Seduta sulla roccia, Seth cadde in avanti, cercando di liberarsi dalla morsa delle mani che non erano lì. Quando Denver prima e Beloved poi la raggiunsero, Seth era a terra che dimenava i piedi. «Signora! Signora!» gridò Denver. «Signora!» e fece voltare sua madre sulla schiena. Le dita lasciarono la presa e Seth dovette mandar giù delle grandi boccate d'aria prima di riuscire a riconoscere il volto della figlia accanto al suo e quello di Beloved più in alto. «Ti senti bene?» «Qualcuno ha cercato di strozzarmi», disse Seth. «Chi?» Seth si strofinò il collo e cercò di mettersi seduta. «Nonna Baby, credo. Io le ho chiesto solo di massaggiarmi il collo come faceva una volta. All'inizio andava tutto bene. Poi deve aver perso la testa. A te non farebbe mai una cosa simile, signora. Nonna Baby, ma va, figurati. Aiutatemi a tirarmi su. Guarda.» Beloved stava indicando il collo di Seth. «Che cos'è? Che cos'è che vedi?» chiese Seth. «Dei lividi. Sul collo. Qui», disse Beloved. «Qui e anche qui.» Allungò la mano per carezzare le chiazze che stavano assumendo un colore più scuro della gola scura di Seth, e le sue dita erano ghiacciate. «Così non serve a niente», disse Denver, ma Beloved si era ormai chinata e con tutte e due le mani le accarezzava la pelle madida che al tatto sembrava camoscio e a vederla sembrava taftà. Le dita di Beloved erano celestiali. Sotto la loro azione, respirando nuovamente in modo regolare, l'angoscia di Seth scivolò via. La pace che era andata cercando lì, ora le era penetrata dentro. «Diamo proprio un bello spettacolo», pensò Seth, e chiuse gli occhi per raffigurarsi la scena. Tre donne al centro della radura, alla base della roccia dove Baby Sax, la santa, aveva amato. Una seduta e offriva la gola alle mani caritatevoli di una delle altre due, inginocchiate davanti a lei. Denver osservava i volti delle altre due. Beloved osservava quel che stavano facendo i propri pollici e quello che vide dovette piacerle, dato che si chinò verso Seth per darle un bacio sulla parte dolorante, sotto il mento. Restarono così per un po', poiché né Denver né Seth sapevano come fare a smettere di osservare o di provare piacere nel bacio prolungato di quelle labbra. A un certo punto Seth, afferrando Beloved per i capelli e battendo le palpebre, l'allontanò da sé. «Sei troppo grande per queste cose!» Guardò Denver e, vedendo che il panico si stava trasformando in qualcosa di più, si alzò di colpo, spezzando così quel quadro drammatico. «Avanti, su!» disse Seth, facendo cenno alle ragazze di alzarsi. Mentre si allontanavano dalla radura, avevano più o meno lo stesso aspetto di quando erano arrivate. Seth davanti, le ragazze dietro, un po' staccate. Taciturne come prima, ma con una differenza. Seth era seccata, non per il bacio, ma perché giusto un attimo prima, mentre si lasciava andare piacevolmente ai massaggi di Beloved, che le alleviavano il dolore, le dita che amava e quelle che l'avevano calmata prima di soffocarla le avevano fatto ricordare qualcosa che ora le sfuggiva. Ma una cosa era certa. Non era Baby Sacks ad avere tentato di strozzarla, come aveva pensato in un primo momento. Denver aveva ragione, e camminando nella luce screziata degli alberi, a mente lucida, lontano dalla suggestione della radura, Seth si ricordò la sensazione di quelle dita che conosceva meglio delle proprie. L'avevano lavata, un pezzo dopo l'altro. Le avevano fasciato il ventre, pettinato i capelli, unto i capezzoli, cucito i vestiti, ripulito i piedi, spalmato la schiena di grasso e praticamente avevano lasciato perdere tutto quello in cui erano impegnate per massaggiare la nuca di Seth, soprattutto nei primi giorni, quando il suo umore crollava di colpo sotto il peso delle cose che ricordava e di quelle che non ricordava. Il maestro che scriveva con l'inchiostro fatto da lei stessa, mentre i nipoti se la spassavano su di lei. Il volto della donna col cappello di feltro nel prato mentre si rialzava per stiracchiarsi. Anche se si fosse trovata in mezzo a tutte le mani di questo mondo, avrebbe saputo riconoscere quelle di Baby Sacks, così come avrebbe riconosciuto le buone mani della ragazza in cerca del velluto. Ma per 18 anni aveva vissuto in una casa carica di sensazioni provenienti dall'altro mondo. E i pollici che le avevano fatto pressione sulla nuca erano gli stessi. Forse era lì che lo spirito se n'era andato. Dopo che Paul D l'aveva sbattuto fuori dal 124, forse era tornato padrone di sé nella radura. È possibile, pensò. Voleva tornare a casa, in fretta, dare qualcosa da fare a quelle ragazze pigre per tenere occupate le loro menti svagate. Affrettandosi lungo quel verde corridoio tra gli alberi, ora più fresco dato che il sole si era spostato, si accorse che le due ragazze si somigliavano come sorelle. Fu improvvisamente colpita dalla loro obbedienza e dalla loro assoluta fidatezza. Seth riusciva a capire Denver. La solitudine l'aveva indotta a essere riservata, ad autosuggestionarsi. Tutti quegli anni passati sotto l'incubo del fantasma le avevano instupidito la mente in modo incredibile e gliel'avevano acuita in modo altrettanto incredibile. Il risultato era una figlia timida, ma cocciuta, e Seth, pur di proteggerla, era disposta a morire. Dell'altra ragazza, di Beloved, sapeva meno, quasi niente, tranne che non c'era nulla che non avrebbe fatto per Seth e che lei e Denver amavano farsi compagnia. Ora pensava di sapere il perché. Consumavano i propri sentimenti o vi si aggrappavano in modo armonioso. Una era lieta di accettare ciò che l'altra aveva da dare. Erano rimaste indietro, tra gli alberi che circondavano la radura, per poi accorrere subito con urla e baci quando Seth stava soffocando. A ogni modo, era questa la spiegazione che dava a se stessa, poiché, tra le due, non aveva mai notato né competizione né il predominio dell'una sull'altra. In mente aveva solo la cena che voleva preparare a Poldi, qualcosa di difficile, qualcosa che voleva fare giusto così, per inaugurare la sua nuova vita da donna forte con un uomo dolce. Con la mente che già frugava in cucina ancor prima di arrivarvi, Seth era talmente presa dai suoi doni che non vide neppure, proprio davanti a lei, nello spazio sotto le scale bianche, la tinozza di legno con Poldi seduto dentro. Seth gli sorrise e lui ricambiò il sorriso. «L'estate deve essere finita», disse Seth. «Vieni qua dentro». «No, no, ci sono le ragazze. Io non sento nessuno. Devo cucinare, Poldi. Anch'io», rispose lui. Si alzò e la tenne lì, stringendola tra le braccia. Il vestito di lei assorbì tutta l'acqua del suo corpo bagnato. La mascella di Poldi era vicino al suo orecchio. Il mento di Seth gli sfiorava la spalla. «Che cosa cucini?» «Pensavo i fagiolini verdi». «Oh, sì!» «E pensavo anche di friggere un po' di gran turco». «Ah, sì!» Quella era una cosa che poteva fare, ne era sicura. Proprio come il giorno in cui era arrivata al 124. «Sweet Cherry».